nonostante anche diversi contatti che abbiamo avuto, con cui abbiamo provato a spiegare anche le comunicazioni ufficiali che abbiamo già inviato, mi pare che nell'intervista di ieri Trotta non c'entri la questione, mettiamola così. Dice che hanno saputo che lunedì il comune ha inoltrato una documentazione che noi abbiamo prodotto insieme alla nostra avvocata Zorzella al Tribunale di Bologna e che con questo atto per loro hanno fatto il loro dovere ed è tutto risolto. Quello che continuiamo a dire, che abbiamo provato a spiegargli, a ripetergli, è che non basta certo inoltrare un'email, ma il comune deve fare un atto con cui invita l'ufficio circoscrizionale del Tribunale di Bologna, che è altra cosa dal TAR, a riconvocarsi per correggere un errore materiale molto semplice. Questo noi lo diciamo da prima del 27 ottobre, lo abbiamo detto sui giornali, abbiamo detto davanti a Trotta e anche al sindaco Lepore, lo abbiamo ribadito con una PEC, quindi con un atto formale più di 2 settimane fa, a cui non abbiamo però ricevuto ancora nessuna risposta formale sul punto principale, ovvero se e quando l'ufficio circoscrizionale si riconvocherà, perché per noi questa è l'unica soluzione possibile, Anche anche la più perché veloce, perché sennò si arriverebbe a febbraio, perché il TAR vi ha dato queste tempistiche. esattamente, dall'intervista di ieri sembra che con questo atto si vada al TAR. No, sono 2 strade separate, perché noi quella del TAR l'abbiamo già attivata. L'udienza è stata convocata al 16 febbraio, che evidentemente ci sembra un tempo un po' lungo per risolvere un errore così, così semplice. Ci dicono che si vogliono occupare del tema, che se ne stanno occupando, ma mi viene un po' da ridere, mi sembra che si stia scherzando con una piccola questione che si chiama democrazia, che non tocca soltanto noi di potere al popolo, ma credo che tocchi a tutti i cittadini, l'elettorato del quartiere di San Donato e San Vitale, ma direi anche tutta la città. Per cui continuiamo a dire che se vogliono occuparsi del tema, davvero a noi fa piacere, ma su questo chiediamo 2 questioni. Uno, che ci rispondano formalmente, non soltanto attraverso interviste appunto un po' anche confuse, ma soprattutto che smettano di convocare dei consigli che sono illegittimi, perché lo sanno bene anche loro e se ne sono resi conto. Su questo noi l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che ovviamente impugneremo tutte le delibere a partire da quella di convalida del Consiglio del 27 ottobre, la delibera sulle commissioni fatta lunedì e se insistono a voler chiamare un Consiglio che dovrà addirittura discutere del bilancio, quindi un tema sicuramente importante, con un Consiglio illegittimo, Consiglio già convocato per il 1° dicembre, se vogliono continuare su questa strada, ovviamente noi ci attiveremo per far sentire la nostra voce, ecco. La validazione dei risultati delle elezioni amministrative ovviamente viene anche fatta da un magistrato. Quindi fammi capire rispetto a qual è la vostra posizione. Voi chiedete che il comune lo convochi per risolvere poi il problema che ha generato? Esattamente. L'errore in sé può succedere. Ovviamente, diciamo, c'è un sistema che evidentemente non richiede un ultimo passaggio di controllo, per cui l'errore può succedere e ce ne si accorge soltanto nel momento in cui escono i documenti ufficiali. Nel momento in cui ce ne siamo accorti, abbiamo chiesto questa soluzione, appunto, diciamo, sostenuta anche dallo studio, appunto, grazie alla nostra avvocata, allo studio delle leggi e dei precedenti. Ci risulta inoltre che un atto simile di correzione di un errore dei verbali sia stato fatto al quartiere Navile. Non capiamo perché il comune si ostini a non volere usare, diciamo, questo metodo che sarebbe semplice, risolverebbe i problemi a tutti. Mi verrebbe da dire prima di tutto a loro, non capiamo perché, e non capiamo perché non riceviamo nessuna risposta formale su questa questione.